Letture di Radio 24. Se pensate di trasferirvi a Copenaghen per godere di tutta la libertà sulla vostra amata city bike, state attenti. Non tanto alle automobili, obbligate a viaggiare su corsie ristrette e dare sempre la precedenza ai ciclisti, bensì ai pedoni, stufi della prepotenza delle oltre 300.000 bici che sfrecciano ogni giorno per le strade della capitale danese, i bipedi hanno lanciato il guanto di sfida. Avvertiti i pirati della strada a due ruote, a Copenaghen la cicloanarchia sta per finire. Alla guida del movimento pedoni, animato dalla potente gerontocrazia locale, il paladino Michel Ledoux. «I ciclisti sono una sottospecie di terroristi», dice Mike. «Infrangono ogni tipo di legge e terrorizzano le persone sui marciapiedi. Ogni anno ci sono decine di feriti e anche qualche vittima tra gli anziani che cadono. I ciclisti, specie i più imberbi, fanno spallucce. Che stiano attenti i pedoni, come stanno attenti alle auto. Ledoux non ci sta. Armato di camera digitale e camcorder, montato sul cruscotto della sua automobile, riprende i ciclisti indisciplinati mentre bruciano semafori, pedalano contromano o invadono aree pedonali. Raccolto il materiale, lo consegna alle autorità facendo pressione per reprimere gli indisciplinati pirati. Chiedo solo, spiega, di far rispettare le regole alle bici. Dato l'aumento di controlli e di sanzioni per gli indisciplinati, sembra che la crociata di Ledoux abbia avuto successo. E occhio al campanello, non possederne uno potrebbe costarvi una multa molto salata. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Emanuele Bonpan, Pedoni e bici, alta tensione, dal numero di ottobre del mensile Intelligence Lifestyle.